Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. In questa puntata parleremo di Torino. Abbiamo scoperto che Torino è gemellata con Liegi, città in cui trasmettiamo attraverso Radio Prima. Siamo lieti quindi di contribuire con le nostre sonorità a mantenere questo rapporto fra due città d'Europa. Nel ventre della città di Torino abbiamo Porta Palazzo. Appaiono le romane porte palatine e su Piazza della Repubblica il celebre mercato, uno dei più grandi d'Europa, con un'area coperta, un padiglione d'epoca con orologio. 10 carciofi! In questa zona della città avvengono scambi di derrate alimentari di ogni genere. Bene, va bene, va bene, va bene! Acquisti leciti e illeciti, nelle vie laterali si traffica e si cincischia. Perché Porta Palazzo è anche il Balloon. Mercato dell'usato, dell'antiquariato, e attorno si muove una umanità proveniente da tutto il mondo. Immigrazioni vecchie e nuove in un'atmosfera che anacronistica è dir poco. Alcuni angoli profumano ancora di polvere della Torino che fu. Così Porta Palazzo, fra cibo e oggetti di un tempo, resiste. È l'antitesi comunque ricca, varia e incontrollabile al non luogo del centro commerciale. Se si vive in Piemonte è difficile non aver mai ascoltato una storia o un aneddoto su Porta Palazzo. Di un parente o un amico che vi ha comprato un oggetto introvabile o magari si è ritrovato alle strette in qualche postribolo. E così Porta Palazzo è un luogo carico di storie e ognuno può ricavarne le proprie. Di Porta Palazzo ricordo una bicicletta acquistata qualche anno fa. Un velocipede con i freni a bacchetta, col quale sono andato puntualmente a finire nei binari del tram. E il tram incombeva minaccioso alle spalle. Di Porta Palazzo ricordo i kiwi più buoni mangiati in vita mia. Piccoli, morbidi, di delicata dolcezza, acquistati da un contadino. Di Porta Palazzo ricordo un angolo in cui arrivavano magrebini con le tasche gonfie di telefonini rubati. Quando capirono che non ero pericoloso, presero tranquillamente a scaricare il raccolto. In un secondo momento diventarono anche propositivi e promozionali. Le leggende narrate nelle famiglie piemontesi tramandano che a Porta Palazzo è possibile trovare qualsiasi cosa. Ho conosciuto chi sostiene di potervi reperire dell'artiglieria pesante, ma anche chi vi ha acquistato splendidi oli per poche centinaia di euro. Così in questo luogo, in cui bene e male si compenetrano, come nel mondo cataro, sono ritornato anch'io. Forse per raccontarvi qualcosa, o forse per ritrovare, ritrovarmi, mescolarmi. Scusa, forse non so dire che cosa. Devi prenderlo dall'altra parte, col tuo permesso. Permesso, scusa, mi fa solo bollare per favore. Dovunque ci troviamo, ciò che sentiamo è principalmente rumore. Quando lo ignoriamo ci disturba. quando lo ascoltiamo lo troviamo affascinante, da un discorso di John Cage. Sono già traballanti sulle gambe. Beh. Al giro. Sì. Un po' ogni giorno così. Io dico ai giovani, fermate il tempo voi che potete. Perché poi a cerchi vengono. Ah sì. Buona giornata. Arrivederci. Porci la vai a prendere. I love you baby. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez acheté ici à Porta Palazzo de votre quelles sont les courses? Oui, alors 2 kg de carottes. De carottes. 1 kg de bananes, oui. Et 2 kg de mandarines. Oui. Des fruits et légumes. Parfait. Et vous êtes ici à Turin pour quoi? Pour Erasmus. Pour Erasmus. Une année étudiante Erasmus, oui. Okay. Vous aimez bien Porta Palazzo? Oui, oui, je vais régulièrement parce que c'est pas trop cher, surtout pour ça. Donc vous êtes étudiant? Oui, oui, oui. Voilà. Bon permanence à Turin alors. Merci. Merci, merci à vous. Ah, 1,70. 1,60, 60. Oh, cosa vendi? Cosa vendi? Tutto. Tutto. Tranne. Tranne te. Bravo. No. Ah, non di più. Un euro. Bene, va bene, va bene, va bene. Broccoli, un euro. Buongiorno. Ma sono belli questi broccoli. E ci si va. 10 per 3 euro. Andiamo, andiamo, andiamo, madame. Forza. Abbiamo ribassati i carciofi, carciofone, carciofone. 3 euro, 3 euro, 10 carciofi. Che fai, salvo, siamo arrivati. No, vuole tagliare. Io diciamo 3 euro, forza che ce la fai. Dai, all'assaggio l'uva, forza. Ma che 1 euro. Grazie, ragazzi. Prego. 10 carciofi, 3 euro. 1 euro. Da questa parte non si può. Un euro, copri lavatrice, tappeti, lavello e rete antiscivolo. Solo l'antiscivolo costa più di un euro, è tutta la ritira. Solo quella costa già più di un euro. Come va sto pesce? Cammina. Cammina, va avanti indietro. Avanti, va avanti. Allora. Senti, hai voglia di raccontarmi qualcosa? Per la radio? No. Che cosa vendi? Buste? Sì, sì, busta. È da tanto che sei in Italia? Sì, 3 anni. 3 anni? Sì. E da dove vieni? Marocco. Dal Marocco? Sì. Come ti trovi qui? Sì, per la crisi. Non riesci tanto. Hai venduto qualcosa oggi di borse? Una. Una sola? Sola, da sì. Che ora? 9:30. Ah, peccato. E quanto costano le tue borse? 1,50. 1,50. Ok. Quindi tu e lavori sempre qui a Porta Palazzo? No, già lavorare all'Evico per la crisi di 1 anno e mezzo. Cos'era una? Chiller Service. E che cosa faceva? Fabbrica sotto Evico. Ah, sotto l'Iveco, ah sì. Ok, l'Iveco. La polizia. E quanto è durato il lavoro? 10 mesi. 10 mesi. Poco. Va bene, grazie allora. Forse per raccontarvi qualcosa, o forse per ritrovarmi, mescolarmi. Liquida, signori, si liquida! Signori, le crante marche in offerta speciale! I colate di marca, 25 euro. 2, 3 euro. Ultimi capi, chi ci arriva arriva. Ai ragazzi, curiosate, occhio al friccio. Tutti uguali. Dai che è stato un po', eh. 1 euro. Guardate pure. 1 euro. Chino, senza senso, chiedi 1 euro, donne. Or chiedo per 1 euro. 2 verze, 1 euro, sveglia questi prezzi, sveglia. Prende pure un sede, no? No, con un prego. Sarà un chileccio. Andiamo, no, no, qua, vale. Cosa ho comprato? Cosa ho comprato? Frutta e verdura. Frutta e verdura, ma qualcosa in particolare, i carciofi, che hai comprato? No, ho comprato le cipolle, le banane, l'insalata. Hai risparmiato, contento? Eh beh, qua si risparmia a Porta Palazzo. È sicuro? Penso di sì, rispetto agli altri mercati, sì. Mi pare sì. Grazie, arrivederci. Da dove vengono? Un euro. Da dove vengono questi qui? No. Ah, due parole. Chiedo solo che cosa ha comprato, che come. Scarola e basta, scarole. La scarola, e basta per oggi. Oggi quello mi manca, lo voglio sapere tra tutto. Sì, a tutto. Ma viene tutti i giorni? Ogni tanto. E le piace venire qui? Qua sì, è buono, qua è il migliore di tutti. Sì? Eh sì. E la gente com'è? Corti cordiale con tutti. Se ti porti bene, va bene con te. Ok, grazie, buona giornata. Belli. Buoni speciali da costiera. Sono belli, ma sono veramente della costiera, li fa lei? No, amore, proprio della costiera, si vede. Quanto vengono? Ma io ne voglio solo due. Ne vuoi mezzo chilo? No, ne voglio solo due, da mettere in frigo. Guarda, faccio il limone con l'olio. Questa solo un attimo. 50 va bene? Sì. Guarda. Favolose, amore, e mangi proprio i limoni della costiera, guarda qua. Ok. Non freschi di temperatura, che siamo tutti freschi, di raccolto, che sono due cose diverse. 50, amore, va bene? Sì, va bene. Mezzo chilo te ne date, eh? Non te le faccio pagare di più. Sì, non c'è problema. Sono onesta io, lo so. Ti metto nel mezzo chilo 70. Lo so, lo so. No, arrivederci. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Vai con comodo! Prego, capire, zia! Prego, Bravo! E poi succede che nei quartieri multietnici di Torino ci sia chi tenta di penetrare per conquistare, con idee di bonifica come se si dovesse entrare in una palude infestata di coccodrilli. Ma spesso sono i luoghi a vincere, forti dei loro trascorsi. In via Nizza si tentò di impiantare un McDonald's, ma fu il quartiere, quello di San Salvario, di cui parleremo, a travolgerlo. Travolgerlo prima di tutto esteticamente. Il rischio di trasformare quartieri vissuti in centri commerciali e macchine dello svago a cielo aperto, successioni di lucide vetrine con affitti da capogiro. Porta Palazzo resiste anche al quadrilatero limitrofo, Tempio dell'Aperitivo. Abbiamo parlato quindi di Torino, città italiana gemellata con Liegi, in cui trasmettiamo attraverso Radio Prima. Tutte le puntate sono disponibili in rete al nostro indirizzo ondivago.blogspot.com. Vi invitiamo ad iscrivervi anche al nostro gruppo su Facebook. Ringraziamo anche Radio Valdarno e Quanta Radio e gli ascoltatori che ci stanno seguendo. A presto con Ondivago. Ondivago, parcours ondoyant attraverso la letteratura, les arts e la cultura. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info, ondivago.blogspot.com. Email, ondivagoradio@gmail.com.